Buonasera, buonasera e buon anno, buon 2020 da Claudia Mighty Mau su queste note malinconiche di questa versione per chitarra classica dell'Inno alla Gioia di Beethoven, che da anni, nelle varie versioni più strampalate, costituisce la sigla di Mighty FM. Mighty FM che ha compiuto 10 anni. Sarebbe stato bello andare in onda magari più vicino al giorno, visto che siamo una nazione, ma cosa dico, un pianeta che vive di anniversari. Ogni giorno è l'anniversario di qualcosa, anche con i Doodle, che ce lo ricorda sempre anche di cose assurde o di personaggi veramente poco conosciuti ma magari importantissimi. Ma niente, viviamo di anniversari e quindi come non dire che il 13 gennaio del 2010 andò in onda la prima puntata di Mighty FM. Adesso invece siamo alla 11ª stagione e siamo qui per parlare di un disco che è uscito il 10 gennaio 2020, ma che ha una storia molto lunga, una rincorsa molto lunga, perché l'uscita è stata anticipata da una sequela di singoloni, uno più figo di un altro, a firma di Georgia, ovvero Georgia Rose Harriet Burns, nata il 6 febbraio 1990, londinese doc, e questo è il primo pezzo dell'album Seeking Thrills. Il pezzo è Start It Out. Keep up with you. Estremamente caldo, accattivante, che suona familiare fin dall'inizio. E ci stavo pensando prima, forse questo synth sotto, che è un po' caraibico, mi ha ricordato moltissimo la Isla Bonita. Perché la cara Georgia, che è nata nell'ambito della musica, elettronica, ha dichiarato che nella creazione di questo disco, Seeking Thrills, la ricerca del brivido, lei si è ispirata molto ai grandi nomi del pop, come Madonna, Depeche Mode, e anche Kate Bush. E dicevamo, una gestazione lunga, non una gestazione lunga l'album, ma proprio si è fatto un po' desiderare, perché ha voluto giustamente capitalizzare su ogni pezzo che ha pubblicato. Infatti questo Start It Out è stato rilasciato, released nel 2018 addirittura, ma non è appunto l'unica eccezione. E è stato, diciamo, preso in simpatia da Annie Mac, una delle speaker radiofoniche della BBC più famose, che quindi le ha dato molta luce, evidenza, importanza, risonanza, insomma tanti passaggi. Insomma, se te lo passa questo programma della BBC, il pezzo ha successo. Quindi lei stessa ha detto in un'intervista che ho ascoltato oggi a Giorgio Valletta, che proprio per Radio Rahim, visto appunto questo successo, hanno voluto posticipare l'uscita dell'album affinché un po', insomma, a parte il pezzo, insomma, godesse, non fosse subito rimpiazzato, dimenticato da qualche altra uscita, quindi proprio facesse la sua vita e allo stesso modo appunto che aumentasse l'interesse, la curiosità nello scoprire quest'artista per chi appunto ancora non la conoscesse. E io stessa l'ho conosciuta con un altro pezzo che è uscito sempre, uscito nel 2019, l'anno scorso, che ascolteremo tra poco, ma c'è già chi la conosceva, come per esempio il caro mio amico Lorenzo, che spero ci stia ascoltando, perché come dicevo prima lei è nata nell'ambito della musica, perché è la figlia di Neil Barnes, ovvero uno dei due Left Field, un gruppo insomma molto importante degli anni 90 della scena dance alternativa, con dei pezzi molto famosi come per esempio Open Up del primo disco, il pezzo con John Lydon, ovvero Johnny Rotten. Il primo album appunto Leftism del 95, poi c'è stato Rhythm and Stealth nel 99 e poi dopo 16 anni Alternative Light Source, che appunto invece di ascoltare, di scegliere di ascoltare, perché ovviamente stiamo ascoltando i Left Field, invece di ascoltare uno dei pezzi insomma più famosi del passato, ho scelto di passare questo pezzo, è Universal Everything, perché mi dicono che c'è proprio featuring Georgia Burns, ovvero il padre ha chiamato, invitato la figlia a partecipare in questo pezzo. Non so in che veste, perché di voce ce n'è poca. Tra l'altro questa è una versione edit perché durerebbe il doppio e appunto l'ho troncata a metà. Oppure se in veste di batterista, chissà, perché Georgia Burns è fondamentalmente una batterista, una percussionista. Ecco, forse era la sua voce. E infatti lei racconta che insomma è nata in questo contesto, che non risulta strano per chi ci nasce dentro, appunto uno fa con quello che ha, con quello che trova, e infatti tipo a 6 anni era a casa dell'altro Left Field, Paul Daly, e c'era una batteria. Lei aveva tipo 6 anni e ci si è messa dietro e ha dato segno di sapere quello che faceva o quello che ci poteva fare, ed infatti è quello che ha fatto poi negli anni abbastanza precocemente, insomma, e con insomma, buoni risultati. これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 Haha, sorpresona. Cioè, ovvero, per chi conosce un po' la storia di Georgia, non è una sorpresa. Ovviamente questa è Missy Misdemeanor Elliott, mia coetanea, anzi leggermente più piccola di me, Melissa Missy Arnett Elliott. E questo perché? Perché l'abbiamo messa in scaletta? Perché questo è stato un pezzo fondamentale nella vita e quindi anche insomma nella vita come musicista di Georgia Burns. Anche un pezzo pezzo che ci piaceva mettere ai tempi in cui è uscito e ha spaccato, che era veramente qualcosa di veramente freak, veramente innovativo, dall'album del 2001 Miss E, punti di puntini, So Addictive. E insomma, la giovane Giorgia sente questo pezzo e pensa che è la cosa più figa che abbia mai sentito in vita sua. Lei aveva 11 anni, 12 anni. Le hanno regalato un pesciolino rosso e lei come l'ha chiamato? Missy Elliott, ovviamente. In your face, open your mouth, give you a taste. Holla, ain't no stopping me. Copy written, so don't copy me. Y'all do it sloppily, and y'all can't come close to me. I know you feel me now. I know you hear me now. Però l'attività musicale, insomma cominciare ad imparare a suonare la batteria di percussione, non è stata la prima cosa a cui si è dedicata più o meno in modo intenso nella prima infanzia, perché, cosa appunto molto curiosa che abbiamo anche scritto nella nostra scheda di presentazione, un giorno è stata vista, notata, mentre giocava a pallone, è stata avvicinata da un, non so, un allenatore, insomma queste persone che vanno insomma a guardare la gente che gioca a pallone, e l'ha fatta iniziare a giocare nella, ovviamente piccolina, nella squadra dell'Arsenal e nella squadra femminile del Queen's Park Rangers. E poi ovviamente il suo punto di riferimento era il suo allenatore. Alla morte dell'allenatore, insomma, lei ha deciso di, insomma, di lasciar perdere il calcio, perché insomma le cose, nelle sue parole, stavano diventando un po' troppo intense. Torniamo ad ascoltare il pezzo che avevo semicitato prima, ovvero senza citarlo, ovvero il pezzo con cui ho conosciuto Giorgia, ovvero un singolo che è uscito l'anno scorso, About Work the Dance Floor, veramente infectious, come dicono. Anche perché di rimandi ce ne stanno, anzi ce n'è uno enorme e basta. E colgo l'occasione per salutare il mio amico Roby Cipitz, lui sa perché. Ho messo questo pezzo già in trasmissione, non mi ricordo quando, ma ovviamente il riferimento è stato esplicitato e non c'è bisogno di esplicitarlo ancora, perché verrà esplicitato dal pezzo successivo, che è esso stesso completamente, direi, sussunto in questa About Work the Dance Floor, che ovviamente è una canzone che si rivolge ad un'altra persona, no? Un discorso diretto verso un tu, ma che potrebbe essere proprio la pista da ballo, proprio il dance floor, l'oggetto di questa canzone. Perché lo ripeteremo più o meno 17 volte in questa trasmissione, l'oggetto di questo album è la musica dance e la celebrazione di questi spazi sacri, spazi di libertà, di progresso, di sicurezza, quelli giusti, quelli fatti bene, quelli dove c'è il rispetto e la potenzialità, la potenza di questi momenti di condivisione, these moments with you. Ovviamente era lei. Proprio l'attacco di About What the Dance Floor è evidentemente un omaggio, infatti sempre in questa intervista che ho ascoltato oggi fa riferimento al pop scandinavo e nomina appunto Robin, Dancing on My Own, Body Talk Part 1. Ormai del 2010. Ormai. Che decennio strano. E ai Knives. Però ho sbagliato perché non era un pesce rosso, chissà perché ho pensato che fosse un pesce rosso, ma era un criceto, criceto Missy Elliott, che appunto aveva quando aveva 11 anni. E appunto le dice che quando ha sentito Get Your Freak On, l'ha sentito in macchina e ha pensato appunto che fosse la miglior cosa che avesse mai ascoltato nei suoi 11 anni di vita. Appunto per questo approccio fresco che aveva Missy Elliott alla musica hip hop, anche perché appunto era una scena ancor più appunto nel 2000 iper maschile e aggressiva. Ma appunto lascia il calcio e frequenta la Brit School, che è appunto una scuola superiore di Performing Arts and Technology nel quartiere di Croydon. È appunto una scuola dedicata a performing arts, media, art e design, le tecnologie ovviamente di cui non ci si può fare a meno, che permettono questo tipo di performance. Adesso è una scuola che è stata frequentata da Adele, da Luna Lewis, Jessie J, da Amy Winehouse, dai Black Midi. Came direi che Giorgia assomiglia a Robin anche per il timbro. In realtà, ascoltando questo disco, se uno ascolta ovviamente di seguito e senza una matta che ci parla sopra, si possono cogliere le diverse, insomma, diversi riferimenti più o meno esagerati, insomma, diciamo che Work the Dance Floor è un riferimento a Robin appunto abbastanza marcato, però appunto ci si può sentire e l'ascolteremo durante questa trasmissione, quindi vabbè, spoiler alert adesso perché non ho scritto neanche tutte le gli contributi esterni che ascolteremo durante questa trasmissione, anche perché diciamo che è stata una creazione un po' confusa. Non sono molto soddisfatta della sequenza di questi pezzi che ascolteremo, però sono tutti pezzi belli, poi insomma che problema c'è? E insomma si sente Robin, si sente i Churches, si sente Peaches, si sente Mia. E siamo arrivati al terzo pezzo di Seeking Thrills, che anche un video e singolo, vabbè, Started Out, appunto video singolo uscito nel 2018, About What the Dance Floor, video singolo uscito nel 2019, Never Let You Go, uscito sempre verso la fine del 2019, 4 mesi fa. Anche questa invocazione brother sister mi ricorda qualcosa, ma non avevo abbastanza neuroni per arrivare a capire che tra l'altro una cosa che la dico io, perché appunto non si sente nella versione che ho trovato di questo disco, c'era come ultimo pezzo Never Let You Go Alternative Version, che ha delle differenze impercettibili, tanto che adesso il pezzo che stiamo ascoltando è un mix delle due, cioè in un continuo passaggio o andando contemporaneamente o passando da un canale all'altro, sono queste due versioni, che forse l'alternative version ha la batteria un po' più analogica, un po' più pestata, un po' più al song 2 dei Blur. Poi appunto ho scoperto che nella versione ufficiale del disco non esiste questo pezzo, Alternative Version di Never Let You Go. Ma a noi piace sempre insomma fare questi mix casalinghi, anche perché in questo caso veramente impercettibile la differenza tra le due tracce. Magari quella ufficiale del disco è più synth pop, questa alternativa, che poi magari chissà chi l'ha fatta, magari l'ha fatta un fan, un musicista, c'è il più basso, c'è più un punto batteria tradizionale. Appunto in queste scale di tastiera su e giù e soprattutto in questo bridge quando appunto il cantato diventa vibrato mi ricorda moltissimo Lauren Mulberry dei Churches. te un altro triplo salto mortale all'indietro nel passato, nell'85-86, quando ancora Georgia non esisteva. Sheila E. and Prince, A Love Bizarre, contenuto nell'album appunto dell'85 di Sheila E., Romance 1600. E perché? Perché Sheila E. è una delle eroine di Georgia, storica percussionista, cantautrice, cioè autrice e cantante e membro fondamentale della band di Prince, conosciuta come The Queen of Percussion. Splendida 62enne, infatti ho letto di sfuggita che appunto Georgia è stata felicissima nel momento in cui l'ha conosciuta. E infatti l'ispirazione forte, l'influenza forte di Sheila E. proprio nel setup, sai, Sheila E. Suonava in piedi e anche Georgia, che fa i live da sola, solo lei, con una tastiera sulla destra e una batteria elettronica con... come si chiamano, pad esagonali rossi, quindi suonando in piedi, quindi proprio visivamente è molto molto simile a come suonava e suona Sheila E. Devo dire che dal vivo, quello che ho visto anche dei video di Glastonbury, non la considererei una performance proprio imperdibile, ecco, però se viene a suonare in Italia noi ci andiamo. Vedere Georgia, non Sheila E., che vabbè, senza massimo rispetto. Anche questo potremmo considerare una versione alternativa di synth sotto di Robin, 24 Hours, anche questo Robin più Churches, ultimo singolo e video pubblicato un paio di settimane fa, quindi proprio finalmente al momento dell'uscita del disco, dopo questa rincorsa molto lunga. Veramente pezzi belli, trascinanti, fatti bene, euforici, per un disco che appunto vuole celebrare l'euforia del dance floor, del ballare insieme, del trovarsi magari soli insieme agli altri, guardando gli altri, persone che non conosci, e anche con uno sguardo sapere che stai condividendo la stessa cosa, la stessa emozione, ognuno a proprio modo, con i propri movimenti. Mentre, ecco, una cosa che mi sono persa, l'ispirazione invece per Never Let You Go, il pezzo che abbiamo sentito prima, era appunto il pop punk degli anni 80 e anche appunto il punk dell'Est Europa. Questa voce maschile invece penso che sia il famoso Morris, ovvero è solo un alter ego, una voce, un alter ego di Georgia che compare anche in un altro pezzo. We could be. It's the rhythm, baby. E dopo averli nominati un qualche 3-4 volte, arrivano i Churches. Do you really believe that you can never be sure? They're leaving bodies in stairwells, washing up on the shore. Do you really expect us to care what you're waiting for? When you're high in your castle, keeping an eye on the door, the door, the door. If I only see what I can see, I know it isn't there. And if I only knew what I... Questa è Graves, tratta dal loro ultimo album del 2018, Love Is Dead. Ho scelto questo pezzo perché è quello più up tempo in questo disco, che ha dei pezzi abbastanza lenti rispetto all'esplosivo debutto The Bones of Make You Believe. Dicevo, il pezzo di prima, 24 Hours, ha proprio un riferimento, proprio una storia di un qualcosa di aneddoti sulla pista da ballo. On the crowded floor, darkness adorned, ultrasound light, consumed by night. Una cosa che non ho detto ancora è che questo disco è uscito per la Domino Records, e anche una cosa che non ho detto è che è questo disco, il disco di Giorgia, Seeking Thrills, di cui stiamo parlando già da 35 minuti. Appunto, non ho detto che è uscito per la Domino Records, autorevole, importante, illustre etichetta indipendente storicissima anglosassone, diciamo un po' l'equivalente della Matador, ma la Matador americana c'è un po' caduta da quando ha maltrattato tantissimo la nostra Chan. E non ho detto che non è il disco di debutto, anche perché vabbè, adesso tra qualche giorno, il 6 febbraio, fa 30 anni. Ma è il secondo album, ma potrebbe anche benissimo essere il primo, perché non è che prima non ha fatto niente, anzi si è fatta le ossa come session musician, quindi musicista, batterista, studio di registrazione, turnista si direbbe in italiano ma suona male, e facendo parte anche di live band di altri artisti. Ha suonato per XX, per Sanfa, per Quest. E infatti è stato proprio a Quest, artista che comunque non conosco, non ascolto, che lei a un certo punto, quando aveva 21 anni, ha fatto sentire delle cose che aveva fatto lei, e quindi lui l'ha incoraggiata. Insomma, lui è un po' tutta quel movimento, quella scena londinese che abbiamo nominato tante volte, quella di cui fa parte Mikachu, Tears, appunto Sanfa, l'etichetta Young Turks. E quindi Graves, The Churches, ci è servita come piacevole sottofondo sonoro per blaterare. Torniamo a Seeking Thrills con Mellow, che vede l'unico vero e proprio featuring di questo album. Ovvero la presenza della rapper Shy Girl. Coachella, I felt Coachella. Jay Morello keeps a mellow, an amaretto, an amaretto. Mike Morello keeps a mellow, I felt Coachella, I felt Coachella. Jumping up, taking me on a trip to Tenerife. Keeping it holiday, on a bed she wanna stay. Jay Morello, my Morello, keeps it mellow, keeps it mellow. Amaretto, Focaccello, all night, all night. Till it slips, doesn't want anyone to tell her that she's on the run. Keeping it real, never spill, and I'm gonna get it. Anche appunto, come dicevo prima, qual è il riferimento per un suono così scarno, così così minaccioso, un po' appunto da Bad Girl. È ovviamente quello di Peaches il riferimento, perché sicuramente appunto lei, ascoltando musica, succede tantissimo, l'abbiamo detto miliardi di volte in questi 10 anni, che è ovvio che chi ascolta e ha delle passioni musicali poi produce musica, questo filtri in qualche modo. Ma appunto uno può dire, ah vabbè, ma sta Giorgia, un pezzo sembra Churches, un pezzo Robin, un pezzo Peaches, un pezzo Mia, un pezzo questo mondo e quell'altro. Però appunto lei è unica, perché lei è quella che le racchiude tutte. I'm really good, are you keeping up? I'd let you rest, but I play too much. Come on, tap me out, or did you come for more? Might give a little better than I did before. Too much for some, but I'm never done. I'm down too much, I need my fun. Pour me out, cause I drip real smooth. Can't scoop me up till I'm done with you. Follow me, you know shine knows best. Or your chain, who is she? Lose your mind, don't be stressed. Am I better on your lips as it drips down my chest? Too much for some, but I'm never done. I'm down too much, I need my fun. Pour me out, cause I drip real smooth. Pour me out till I'm done with you. Invece a livello di testo, invece questo pezzo è abbastanza criptico, nel senso che io pensavo che fosse magari un riferimento pop a dei personaggi, invece sono una questione di assonanza. Jane Morello e Mike Morello, è un amaretto, infatti l'amaretto di Saronno è molto molto famoso all'estero. Vodka Gello, Amarero, sebbene lei, Giorgia, abbia dichiarato in un'intervista a Billboard nel 2019 di aver smesso, di aver abbandonato completamente l'alcol, essere diventata vegana. Quindi c'è anche questa prospettiva, questo album, vivere il dance floor in stato di sobrietà, che a volte appunto è la cosa più bella, perché se veramente vivi la musica, senti la musica, diciamo che a volte delle sostanze varie ti aiutano anche a ballare della roba che normalmente non digeriresti. Però appunto stiamo ascoltando Hackers di Shy Girl dell'anno scorso come appunto contributo esterno. Dicevo, questo disco Seeking Thrills è stato proprio il frutto di anni di studio, di esperienza diretta, come abbiamo scritto ovviamente, di frequentazione intensa dei club. Infatti molto lei racconta che appena ha potuto, insomma 18 anni, perché era molto ovviamente incuriosita da questi ambienti, perché lei era cresciuta, dice che praticamente la sua cameretta era lo studio di Left Field con tutti gli strumenti, sua mamma la portava ai concerti Left Field, insomma nella metà degli anni 90, dove insomma tutta la scena rave stava un po' filtrando nel mainstream, anche attraverso appunto gruppi come i Prodigy. E quindi lei andava ai concerti e vedeva appunto tutta questa scena, tutto questo entusiasmo, tutta questa euforia. E poi appunto a 18 anni ho cominciato a frequentare lei in prima persona. E questo album è proprio una celebrazione totale, come punto di riferimento alla Chicago House si sente la Detroit Techno, e come nome tutelare un personaggio come The Black Madonna. I Go Round in Circles, Kate Tempest, per un pezzo uscito nel 2013 poi incluso nell'album dell'anno successivo Everybody Down. E devono essere appunto con quest'album che io l'ho vista dal vivo la prima volta a Elita, al Teatro Franco Parente a Milano. Perché Kate Tempest? Beh, l'abbiamo scritto perché appunto in questa sua attività di musicista, soprattutto nella live band, quindi forse ho visto anche Giorgio dal vivo, lei ha accompagnato Kate Tempest appunto in quegli anni lì. E diciamo che Kate Tempest mi piaceva di più con questi pezzi, sì, declamati però musicali. Anche qui massimo rispetto, giovanissima poetessa, veramente un genio, ha vinto premi, ha scritto lì, pubblicato tantissimi libri e album. Dal 2012 al 2018 l'ultimo l'ultimo, The Book of Traps and Lessons, sono appunto declamazioni dove la sua voce proprio si sente che è proprio up front nel mixing deck, con un tappeto musicale abbastanza rarefatto. Invece questi pezzi molto più divertenti, Circles e anche The Truth dello stesso disco, che infatti c'è anche un remix di Mikachu, Mika Levi, perché appunto la cricca è sempre quella, insomma, quelli più giusti di Londra. Ma torniamo a Seeking Thrills. Ecco, adesso che ci penso, magari è qui che un pezzo come questo che viene fuori, il ricordo di Kate Bush. Thrills, quindi un disco che ha visto molto lavoro, durato anche insomma abbastanza tempo. Poi è vero, diciamo che è stata appunto della strategia nel far uscire ogni tanto un pezzo, una cosa che succede frequentemente. Fino appunto alla pubblicazione che è avvenuta il 10 gennaio, anche con l'aiuto di produttori, coproduttori come Sean Oakley, che lavora anche con un'altra giovane band alternativa londinese, i Sorry, e poi soprattutto anche con l'aiuto di Mark Ralph, un produttore anglosassone che ha lavorato con Craig David, Clean Bandit, Aluna George, Usher, Tina Shee. Digitalism, Daniel Avery o Chip. E è finito appunto questo pezzo introspettivo, e a un pezzo di Giorgia segue un pezzo di Giorgia, perché appunto non è il primo album questo. Nel 2015 c'è già stato un primo album omonimo, e questa è uno dei singoli, Nothing Solutions. Questi suoni, questi synth sotto, un po' strani, un po' cupi, magari appunto è qui che magari ha provato a riprendere i suoni di Fever Ray, soprattutto insomma la scena scandinava. In questo primo disco, che appunto era una dichiarazione di intenti e appunto la presentazione di una del lavoro di una persona comunque cresciuta in ambito musicale e che appunto ha deciso di dedicarsi fondamentalmente a uno strumento, e con questo appunto lavorare con altri artisti autori fino a diventare autrice lei stessa. È stato, lei dice, vabbè, il primo disco non si scorda mai, insomma, sarà sempre la cosa più importante della mia carriera. Però è stato anche tantissimo un disco di sperimentazione. Mm. e di quello che ha fatto nel primo disco, insomma, qualcosa, e vabbè, è stata, è rimasta lì, e invece altre cose sono state tenute per buone. E torniamo a Seeking Thrills, perché avendo solo un disco precedente non c'era abbastanza materiale per fare, insomma, un'alternanza tra, insomma, movimentare un po' la scaletta, ecco, perché dopo i conti devono tornare. Quindi, insomma, dopo dei pezzi, d'altra parte i singoli tratti da quest'album sono proprio i primi pezzi, primo, secondo, terzo, quarto, appunto una prima parte di partenza a bomba, anche il pezzo precedente che abbiamo sentito, Till I Own It, molto calmo, anche questo I Can't Wait, ritmato ma molto lento, quindi insomma una metà per tirare fiato, no? Forse in scaletta ci sarebbe stato anche lo spazio per delle giovani, non londinesi, ma di Norwich, ovvero le bene amate Let's Eat Grandma. Noi prendiamo un po' fiato per la gioia degli ascoltatori. Abbiamo nominato prima Fever Ray e Knife, e Fever Ray farà ancora dischi? Sì, probabilmente, però non farà più tour. Insomma, a fine dicembre è uscito Plunge Remix, tante versioni diverse, anche spesso delle stesse artiste, di riletture di pezzi del suo ultimo album Plunge. Questa è I'm Not Done, Still Not Done Mix. Appunto, definito dal Guardian lo stile vocale alieno di Fever Ray, che è stato un po' ripreso nel disco di debutto di Georgia, che ho visto nel suo canale YouTube, ha anche una stilizzazione del nome, come appunto spesso capita, insomma, particolare, ovvero G maiuscolo, O minuscolo, RG maiuscolo, I minuscolo, A maiuscolo. e che comunque tantissime foto assomiglia tantissimo alla mia nostra carissima amica Elodie, per un disco appunto il primo di debutto. Che faceva riferimento anche a appunto a MIA, l'abbiamo detto, ma anche a Arca, a Zomoki. E abbiamo detto di come appunto la sua carriera musicale sì, diciamo che era ben avviata, perché insomma, diciamo di nascita, musicista di nascita. Però appunto ho avuto questa parentesi come calciatrice. E poi ha fatto questo primo disco omonimo, infatti, Giorgia, la serie Sono Io, è un'introduzione, lei dice, è come dire ciao, benvenuti nel mio mondo. È anche un album, era un album semiconcettuale, lei dice, è la storia di una ragazza a Londra che incontra insomma le delusioni d'amore e un po' come possono essere le ragazze inglesi, che escono, si sbronzano, insomma un po' diciamo casinare. Rocus. E anche insomma la sua esperienza personale, perché appunto a un certo punto da quegli anni lì i genitori sono separati. E nell'intervista appunto fatta in occasione dell'uscita di questo disco lei dice mi piacerebbe tantissimo collaborare con, che ne so, un a caso, Missy Elliott, la mia eroina. E invece poi col passare degli anni lei in un'intervista, dopo che aveva vinto, adesso non mi ricordo, era un independent qualcosa, aveva vinto un premio come diciamo artista rivelazione, breakthrough artist, ci piacerebbe tantissimo conoscere e lavorare con The Black Madonna, appunto questo è quello che poi è successo. Marea Stamper mi pare si chiami, e infatti di About World, The Dance Floor c'è un remix di The Black Madonna che anche abbiamo suonato molto danzereccio, anche se io preferisco la versione originale, perché comunque un salto dei 110 bpm 124 suona un po' forzato, un po' artificiosamente veloce o artificiosamente velocizzato. E finisce questo remix di Fever Ray, I'm Not Done, Still Not Done Mix, tratto da Plunge Remix. E torniamo ad un pezzo molto importante dell'album, Seek and Thrills. Uno, perché vabbè, è il più vecchio, è uscito addirittura nell'inizio del 2017. Questo inizio mi ricorda tantissimo il Digitalism, ma poi diventa qualcos'altro. Diventa proprio il suono di Londra, con influenze africane, indiane. Pezzo importante perché, vabbè, appunto, uscita addirittura nell'inizio del 2017, ma che ha voluto includere in questo, in quest'ultimo album. Con un video assolutamente da vedere, perché è proprio una celebrazione dell'essere una batterista. Infatti in questo video ci sono tutte batteriste che suonano di età, colore, stile completamente diverso e che suonano su questo pezzo. E lei dice, io suono la batteria, il basso, la chitarra, le tastiere, il piano e canto. Però ovviamente la batteria è appunto il suo strumento primario. è un pezzo che appunto si chiama Feel It, parla di quando la tua mente, il tuo corpo è assolutamente consumata da una sensazione proprio forte, potentissima, e appunto questa sensazione che prova lei e probabilmente tutte le persone appunto che suonano uno strumento, e in particolare la batteria, in particolare le donne, perché comunque è sempre stato visto, diciamo, insomma come un regno musicale abbastanza maschile, ma questa sensazione appunto di potenza, di onnipotenza che nessuno può disturbare. Insomma, un pezzo che vuole mandare un messaggio universale, che chiunque tu sia e a qualsiasi posto tu venga, tutti noi condividiamo il ritmo. E se sei appunto una batterista, non aver paura di esprimere te stessa, prendi le bacchette e suona. E io dico sempre che la mia amica Vittoria Burattini è il miglior batterista italiano. Siamo tornati a Georgia, l'album di debutto. Anche primo video che abbiamo postato questi giorni sulla nostra pagina Might FM Radio è Move Systems. Ho detto prima, la batteria che suona lei è, beh, ovviamente la batteria elettronica può fare qualsiasi suono, però appunto ha un aspetto antico, non so, in qualche modo. Ah, e poi anche un'altra cosa che avevo scritto e non ho detto, che ovviamente tutti morite se non lo sapete, è che in mezzo ha fatto anche la commessa a Rough Trade, quindi voglio dire, casa e bottega. finisce Move Systems, primo video singolo, il primo Hi, I'm Out, infatti è finito. E ovviamente, insomma, la proprio telefonata. Ovviamente è M.I.A., ovviamente è Bakhtang Gun. Bakhtang Gun, uno dei primi pezzi di M.I.A. tratto dal primo album Arular del 2005. Piace sempre provare a pronunciare il suo nome. Matanji Maya Arul Pragasam. E sicuramente immagino che la quindicenne Giorgia sarà, insomma, rimasta abbastanza sconvolta, blown away dalla novità di M.I.A. E appunto non solo nel primo album, nel pezzo che abbiamo sentito, Move Systems, ma appunto questo suono è qualcosa che si è portata dietro anche per questo ultimo album, Seek and Thrills, che la nostra fonte Metascore, che aggrega, diciamo, i voti di tutte le recensioni, gli dà un 7.8, 2.6 da Mojo Observer, 6.8 da Pitchfork, 7 da The Line of Best Fit, Exclaim, Clash Music, Paste Magazine, Enemy, Q Magazine, no, Q Magazine, Enemy, già siamo sull'8. Una sequela di 8, poi The Skinny, Uncut, The Guardian, All Music, The Y Magazine, fino a The Quietus. Insomma, per dire, dal 6 all'8, insomma, niente sotto il 6, niente sopra l'8, quindi assolutamente, mutazione assolutamente dignitosa. E dopo questo salto nel passato con Bakhtang Gun, torniamo al presente di Seek and Thrills con Ultimate Sailor. Thank you. recensione appunto di The Quietus dice che insomma questo disco appunto ha avuto una lunga gestazione perché appunto voleva capitalizzare insomma sulla notorietà, sull'attenzione provocata da appunto pezzi come Sat It Out e About What The Dance Floor, e poi essendo una perfezionista appunto ha voluto tornare in studio, insomma limare, perfezionare questo disco in modo che avesse insomma il massimo impatto, e che adesso appunto è uscito all'alba di un nuovo decennio questo misto vincente di scrittura pop classica con sensibilità house e techno, che quindi ha un potenziale proprio di che possa piacere veramente ad un pubblico molto ampio. Come anche appunto può conquistare provocare un senso appunto di immedesimazione anche in quello che canta, cioè non sono cose particolari, dice every woman's tales, insomma cose che possono accadere alla donna media della strada. Questa lunga coda finisce Ultimate Sailor, il pezzo più quieto di quest'album, ma appunto prima l'abbiamo nominata e anche se l'abbiamo un po' buttata in mezzo così, non potevamo non ascoltare anche, parlando di Drum Machine, appunto anche questo deve essere un disco che lei, insomma un artista che ovviamente lei avrà ascoltato. Peaches Fatherfucker, l'album 2003. Come abbiamo detto già mille volte, il disco di Georgia Seeking Thrills è un disco dedicato, un disco per ballare in gran parte, e dedicato alle emozioni del condividere questi spazi, e che appunto lei ha studiato per anni e ha studiato frequentando soprattutto i club berlinesi. Infatti c'è un video in cui lei al suo pubblico suonava a Berlino, ha detto: avete veramente club migliori del mondo, io vengo tantissime volte qui a ballare. E infatti anche About World the Dance Floor è, diciamo, un po' il risultato di un weekend passato instancabilmente a ballare, e anche per questo ci ricorda la nostra amica Elodie. E addirittura, appunto, dice: il ballo è quasi una cosa di famiglia. C'era anche mia nonna che durante la guerra aveva quasi una doppia vita, Lila di giorno e Lola di notte, perché andava sempre a ballare. E dicevo, appunto, con suoni un po' alla MIA, è appunto qualcosa che dal primo disco si è portata dietro. Infatti siamo tornati a Seeking Thrills e questo è Ray Guns. Appunto, la nonna di notte andava a ballare con i soldati durante la guerra. Dice: ma è la stessa cosa, insomma, è una storia vecchia come il mondo, che quando sei magari sulla pista da ballo, come se diventassi un'altra persona, quasi come andare in chiesa, avere una religione, un'esperienza religiosa. D'altra parte cantavano anche i Faithless: This is my church. Quindi la pista da ballo come spazio di condivisione, di concentrazione, di energia collettiva, di connessione umana ad un livello profondo. E siamo arrivati a The Thrill. È il pezzo che, appunto, c'è il featuring di Morris, ovvero il suo alter ego fittizio. E nell'intervista con Giorgio Valletta parlava non solo come riferimento, appunto, della Chicago House, della Detroit Techno, che vanno sempre, insomma, abbastanza a braccetto, ma anche si è espressa in lodi sperticate anche nei confronti dell'Italo Disco. E comunque Seeking Thrills, la ricerca dei brividi, non necessariamente quello di una notte fuori di eccessi o di musica, eccetera, anche appunto tu puoi essere una casalinga o un padre che sta a casa e aver bisogno ogni tanto di fare, di darti una controllata, di vedere di cosa hai bisogno, e forse appunto quello di cui hai bisogno ogni tanto è qualche brivido. E ovviamente l'influsso della Chicago House, che si sente molto, è stato comunicato anche appunto dalla sua eroina, ovvero The Black Madonna, l'abbiamo già detto qualche volta. Tra l'altro anche il suo remix del suo pezzo fatto da Black Madonna lo suona anche lei, perché a volte fa anche lei la DJ. E dice appunto in un'intervista a Mixmag che l'ha suonato insieme a Mary Davidson, Work It, quindi va bene, ne teniamo conto, anzi probabilmente l'abbiamo già fatto noi. E ovviamente questa stima e ammirazione è assolutamente ricambiata. Infatti Maria Stamper di Black Madonna dice: Giorgia è un talento pazzesco, insanely talented. Quindi anche lavorare insieme, che appunto hanno lavorato insieme nel disco. Ma non nel disco di Giorgia, ma nel disco di The Black Madonna. C'è questo primo album di Black Madonna, che è ancora un progetto, insomma ancora un work in progress, che... ecco Morris, ecco questo assolutamente la 88 Drum Machine, che fa tanto anni 90. E fa tanto Ibiza, e fa anche un po' People from Ibiza. Dio, non mi ricordo il suo nome, aiuto. Sandy Martin, Madonna. Insomma, siccome di pubblicazioni precedenti c'era solo l'album del 2015, oltre ai due singoli che abbiamo già ascoltato, abbiamo appunto deciso di mettere un terzo pezzo da questo primo disco, che appunto avremmo potuto scegliere altri contributi esterni, abbiamo detto Let's Eat Grandma, ma anche Christine and the Queens, e invece abbiamo messo questa GMTL. Anche questo è un qualcosa di molto molto antico e intenso. GMTL, sicuramente uno dei pezzi migliori dell'esordio discografico di Giorgia, altrimenti non l'avrei scelto. Ma siamo arrivati alla fine, siamo arrivati all'ultimo pezzo dell'album, Honey Dripping Sky. Se mi chiedi di rimanere un po' per un altro secondo, cambierei tutto. Non importa quanto ci sforziamo, non posso negarlo che è per te. Sanguinerò dentro di me per te. Abbiamo fatto degli errori. Non ci stavo con la testa. I wasn't thinking straight. Till the end of time. Till the end of time. Appunto, finisce questo album, finisce così per un artista, appunto, a pubblica per la Domino, un'etichetta indipendente, per cui comunque essere un artista indipendente è importantissimo, è proprio l'ethos che la accompagna. Essere un artista indipendente, perché appunto lei ritiene che appunto anche la musica dance sia una forma d'arte indipendente, magari più che in passato, più in passato che nel presente, ma in generale il ruolo della musica indie è proprio influenzare, innovare e così influenzare quello che è mainstream. Infatti sta succedendo, insomma, da una ventina d'anni a questa parte. E per l'ultima volta voglio dire, raccontando un aneddoto di quello che ti può succedere a volte, queste improvvise botte di emozioni che magari non ti aspetti. Lei racconta che stava ballando con i suoi amici, a un certo punto un DJ ha messo un pezzo che era uno dei suoi pezzi dance preferiti proprio dai tempi della sua infanzia, e ha avuto questo momento in cui si è fermato e ha detto: cazzo, ma quanto è importante per me questa cosa. E appunto è stato un momento di grandissima emozione che l'ha fatta sentire veramente che c'era quella appunto la sua essenza. Dice: forse è un vecchio cliché, però è stato un momento molto molto potente. Appunto sembra un cliché, no? Questa scena, questi momenti che ti prendono sulla pista da ballo. Ho avuto un momento di grande emozione e non avevo mai capito prima quanto può essere potente un DJ, può farti sentire così all'improvviso, e quindi quanto è importante la DJ culture. E quindi ho voluto esplorare tutto quello che c'è stato prima, la prima house di Chicago, quindi i Cybotron, il collettivo Underground Resistance, la scena dei rave inglesi. E questo appunto è filtrato dentro questo album che ci è piaciuto molto. E così finisce Mighty FM. Ciao da Claudia Mighty Mau.